Pronto, ci sei? Sì, ciao, buonasera a tutte e tutti. Io chiamo per informare innanzitutto le compagne, chi sta in città, in quanto sembrerebbe che davanti allo spazio occupato delle Cagne Sciolte si stia raccogliendo un numero preoccupante di forze dell'ordine. Diciamo che la modalità è piuttosto invadente, sembra che sbattino ripetutamente alla porta e diciamo che è la seconda avvisaglia che arriva nel... la seconda intimidazione pesante che arriva nell'arco di pochi mesi. Vi ricorderete tutte e tutti quanti del fatto che hanno già staccato luce e acqua a quello spazio occupato, quindi penso sia importante raccogliersi immediatamente davanti allo spazio occupato delle compagne, che sta in via Ostiense 137B, diciamo che è vicino tra San Paolo e Garbatella, quindi invitiamo tutte e tutti quanti ad andare direttamente davanti allo spazio. Va bene. Per favore, se lo potete ripetere dai microfoni in questi minuti, perché certo, sarebbe buono una grande presenza solidale. Certo, lo facciamo il richiamo, diciamo, cioè l'appello. Va bene. Un abbraccio. Buona lotta. Grazie. Ciao. E dunque, ripeto, che ci ha detto la compagna che davanti ai Cagne Sciolte, via Ostiense 137, c'è una grande concentrazione delle forze dell'ordine e chiamano a solidarietà di tutte e di tutte. Chi può raggiungere subito questo posto, noi ci aggiorniamo e vi aggiorniamo intanto quando abbiamo più precisioni, ma intanto chi può andare va.